Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Con quale metodo sono calcolate le pensioni previste dalla gestione separata? Le varie prestazioni previste per gli iscritti alla gestione separata sono calcolate interamente con il metodo contributivo, basato sui contributi versati e sull'età al momento del pensionamento. Si applica interamente il sistema contributivo perché tutte le iscrizioni alla gestione separata sono successive al 1996. Naturalmente, essendo il contributo inferiore a quello per il lavoro dipendente e trattandosi di lavoro spesso discontinuo, è facile ipotizzare che l'ammontare del trattamento non sarà particolarmente elevato, ma l'aumento delle aliquote previsto dalla riforma dovrebbe favorire un maggior importo dei trattamenti.